9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci, buona giornata, buon giovedì, Oscar Giannino. Oramai dovremmo chiamarlo le 9 e un quarto in punto più che le 9 in punto, ma comunque il tempo, siccome è breve, mi obbliga a essere molto sintetico, molto più del solito nell'introdurre il tema del giorno, anche perché poi molti protestano, dicono che io non dovrei parlare, devi semplicemente fare le domande. Li deluderò, continuerò a parlare invece. Allora, ieri la fiducia, approvazione di questa norma, erroneamente, irresponsabilmente, uso tutti gli avverbi più pesanti di cui sono capace, presentata come privatizzazione dell'acqua. Privatizza l'acqua? Neanche per idea. L'acqua resta un servizio assolutamente pubblico, disciplina tempi e percentuali attraverso le quali le società che oggi municipalizzate, quasi sempre comunque pubbliche, a maggioranza ancora pubbliche, gestiscono questo servizio, possono gestire la rete, il servizio direttamente quando sono proprietarie dell'infrastruttura, mettendo delle scadenze temporali a seconda delle percentuali che hanno, perché da gennaio il servizio in house attualmente previsto decade, quindi bisognerà procedere a delle gare. Il principio delle gare è un principio di trasparenza che consente di fare un esplicito confronto sul costo efficienza con cui viene gestito il servizio. Secondo principio di questa norma è quella di dire che chi è proprietario dell'infrastruttura, siccome non è affatto detto che essere proprietario dell'infrastruttura significa saperla gestire al meglio, perché con economia di scala da parte di privati, grandi gruppi privati internazionali, ebbene sì, è possibile fare più economia di scala negli investimenti che servono, serve investire un terzo in più di quello che si fa per avere impianti più efficienti e per avere reti meno collaborodi, distinguendo tra proprietà e gare per la gestione del servizio, si consente di avere una maggiore efficienza per economia di scala degli investimenti che sono necessari. Ma, dice l'obiezione, ma questo significa che voi ci alzate i prezzi, le tariffe, assetate il popolo. Ecco, questo è stato il modo in cui i giornali italiani, in realtà quasi sempre, con nessuna eccezione, hanno presentato questo intervento, che è un intervento gradualista, che viene dopo anni e anni di continui rinvii di questi due semplici principi: distinguere proprietà dell'infrastruttura e gestione della rete del servizio e consentire più ampie economie di scala, appunto aprendo al privato nella gestione di un servizio iperregolamentato e che resta iperpubblico. Faccio alcuni esempi di come i giornali hanno presentato queste norme al voto. Comincio da Repubblica, che due giorni fa in un editoriale scriveva più o meno così. Naturalmente sempre si nascondono i fogli quando uno poi li cerca. Quello di Repubblica ci arriveremo dopo. Quello del Manifesto era, ma questo si capisce bene, era padroni dell'acqua, e presentava questa manovra del governo con un catenaccio che diceva: un istituto fondato da un ex maoista è chiamato Scuola di Guerra Economica, un dossier rivolto a governi multinazionali che spiega le strategie per vincere la battaglia per il controllo privato dell'oro blu. Al primo punto, come neutralizzare i movimenti dei governi, cosa si nasconde dietro la privatizzazione. Però vedete voi, il Manifesto, ed è più che comprensibile che il Manifesto sia così. La Stampa di oggi: ma così consegniamo tutta la vita al mercato, cosa succede se la globalizzazione raggiunge il gabinetto di casa, firma Antonio Scurati, al pubblico restano solo le liti e le paure, la tendenza al controllo dei beni di sussistenza che passa alle imprese e anche la vita sociale si sta riducendo a un fatto privato. Ecco, dicevo di Repubblica, editoriale di Paolo Rumiz, la storia dell'umanità, scrive Paolo Rumiz, lo dice chiaro, chi governa l'acqua comanda. Le prime forme di compartecipazione democratica dal basso sono nate in Italia, attorno all'uso delle sorgenti, quando i paesi e le frazioni hanno pensato ad affrancarsi grazie all'acqua. Lo scontro oggi, dice Rumiz, non è tra pubblico e privato, ma tra controllo delle risorse dal basso e delega totale dei servizi, con conseguente lucroso monopolio di alcuni. Oggi potremmo dover rinunciare a un pezzo della nostra irrinunciabile sovranità. Io vi dico con grande sincerità, fine della mia introduzione, che non mi riconosco praticamente in nessuno di questi toni, perché sono eccessivi, allarmistici e non hanno a che vedere con nulla di cui si parlasse in quella norma. Vi ho ricordato i due principi di quella norma e i lunghi ritardi di cui è figlia. Ora la approfondiremo con punti di vista diversi con i nostri ospiti, che vado immediatamente a presentare. Abbiamo qui in studio a Milano, insieme a noi, ne sono molto felice, Franco De Benedetti, buongiorno De Benedetti, editorialista del Sole 24 Ore, a lungo senatore con il centro-sinistra per 3 legislature, tra l'altro anche consigliere d'amministrazione di Iride Spa, che quindi gestisce anche questi servizi per Torino e per Genova. Poi abbiamo collegato con noi Alessandro Barbera, giornalista della Stampa. Buongiorno Barbera. Buongiorno. voi. E abbiamo collegato in questa prima parte anche Riccardo Petrella. Riccardo Petrella, buongiorno Petrella. Che succede? Buongiorno anche a voi. Abbiamo sentito un rumore di fondo. Buongiorno Petrella. Petrella è stato presidente dell'acquedotto pugliese e poi ha fondato il Comitato Internazionale per il Contratto Mondiale dell'Acqua. Comincerei da Barbera per fare un punto informativo, perché Alessandro Barbera lo conoscete, uno dei migliori, a mio giudizio, per quello che può valere, giornalisti economici italiani. In questi giorni ha seguito questa faccenda. Lui non scriveva commenti, scriveva puntualmente informando dei fatti i lettori della stampa. Barbera, vogliamo ricordare da quanto tempo l'Italia si confronta con questo problema, innanzitutto? Ma l'ultimo intervento importante è stata la legge Galli, una legge di 15 anni fa, è una legge che ha introdotto i cosiddetti ATO, ambiti territoriali ottimali, che sono i cosiddetti consorzi idrici, che si occupano sostanzialmente di gestire e di in un qualche modo indirettamente anche regolare le tariffe. Non esiste, come per l'elettricità e il gas, un'autorità. Questo è il vero limite di questa riforma. Non c'è in questa riforma un'autorità che, come per l'elettricità e il gas, determini le tariffe, la qualità degli investimenti e che quindi faccia sì che venga risolto il problema annoso di questo paese, nel quale nelle condutture si perde il 30-40% dell'acqua. I prezzi sono bassi, ma ahimè a macchia di leopardo, a Milano l'acqua costa 100 euro al metro cubo, ad Agrigento 440. Ecco, la legge Galli nasceva proprio dalla finalità di dare all'ambito territoriale ottimale una dimensione più coerente per la gestione. All'epoca erano addirittura migliaia e migliaia le gestioni diverse, adesso sono più o meno 250-260 in Italia. Anche qui c'è un bilancio territoriale da fare inclemente per il sud, perché la maggioranza degli ATO del nord ha superato la prova dei fatti, nel sud invece no, due terzi non l'hanno superata e quindi siamo ancora in gestioni iperfrazionate. Franco De Benedetti, lei ha difeso, intervenendo sui giornali, non tanto la norma ma il principio della norma, c'era Dacia Maraini che due settimane fa aveva iniziato il dibattito, mettendo insieme il suo punto di vista e la sua esperienza concreta. Questa norma passata ieri, in che cosa è forse un po' positiva e in che cosa però ha ancora delle stampelle, per così dire, ancora un po' scazzonte? Ecco. Ma innanzitutto positiva è il fatto che si pone in contrasto con questa idea che il servizio debba essere pubblico. Il servizio per il pubblico è un servizio, il servizio deve essere al pubblico, fornito al pubblico, e lo può fornire un soggetto privato o un soggetto pubblico. Io ritengo, e quello che è singolare, scusi se aggiungo alle sue parole quello che ha detto, quello che è singolare è che in un caso dove l'acqua funziona male in Italia, se ne perde il 30-40%, questo da anni, per mettere a posto gli acquedotti è stimato una cosa che ci vanno 20 miliardi, ma dove li trovano i comuni e lo Stato? Nonostante questo si dice no, ma questo qui adesso salto nel buio, verrà qualcun altro. Beh, ma venga qualcuno che non ci fa perdere l'acqua per la strada, che fa gli investimenti. Ora, adesso questo l'ha già detto lei, inutile che lo ripetiamo. Questa legge ha degli inconvenienti. Scusi, i vantaggi non fosse altro che per cercare di per opporsi a questa ideologia corrente, secondo me dannosa, sicuramente dannosa, se non altro per questo è meritevole. Però c'è una norma che dice che si dà a gara a soggetti che non hanno la rete, oppure si può anche fare una gara per il socio, e cioè che se un socio mette il 40% nella società che dovrà gestirlo, c'è la possibilità di fare queste aziende pubblico-private. Queste aziende pubblico-private, secondo me, sono delle niente di male in sé, ma poi si prestano evidentemente, sono la collusione istituzionalizzata, perché si dirà al privato, normalmente si dice il privato gestisce e il pubblico garantisce. Sì, ma poi il privato e il pubblico che si trovano, di come gestire vuol dire soldi, e avere potere significa poltrone, significa che lì è evidente la tentazione, ecco, per essere molto generosi e ottimisti, diciamo la tentazione che si sviluppino delle commistioni pubblico-private, che sono in qualche modo istituzionali. La seconda cosa, e questa non l'ho capita, può darsi che non sia così nella legge, ma supponiamo che ci sia un comune che ha la sua municipalizzata, che controlla il 50%, non vuole scendere al 30% per i motivi che si è detto prima, perché gli manca questo controllo delle posizioni che può offrire, dei posti che può offrire. Non scende, quindi non può più concorrere a gara nel proprio ATO, però può concorrere in un altro. Allora, e se l'altro si trova nella stessa situazione, noi abbiamo che incrociati riescono a eludere la legge. Mi sembra una cosa adesso per fin troppo semplice questa, perché non sia stato impedito una cosa del genere. Però se queste attività incrociate di fatto eludono la legge, beh, ecco, allora evidentemente è un'illusione e quindi bisognerebbe... Io volevo dire che io avevo fatto anche un disegno di legge per la privatizzazione dei servizi pubblici locali, in modo particolare dell'acqua, che è un tema effettivamente di una complicazione enorme, anche perché ci sono situazioni che sono molto diverse da un caso all'altro e quindi è molto difficile dare delle norme generali. Però proprio questo, la privatizzazione veniva proprio mettendo questo stimolo: potrai fare delle operazioni fuori dal tuo ambito solo se hai privatizzato nel tuo ambito, cioè solo se sei privato. Certo. Allora, è un principio che andrebbe bene anche per l'EDF e così via, per tante cose. Per sintetizzare a chi non fosse proprio espertissimo in ascolto questo meccanismo di cosa vuol dire per le società partecipate dalle municipalizzate, provo a risintetizzarlo perché è importante capirlo. Cioè, le società partecipate da quelle a pieno controllo pubblico possono mantenere i contratti che hanno oggi di gestione del servizio, quelli cioè che sono stati stipulati senza una gara formale, solo nel caso in cui le amministrazioni cedano loro il 40% del capitale. Quelle quotate però tra le municipalizzate, quindi questa è l'eccezione a cui si riferiva tra l'altro Franco De Benedetti, quelle quotate hanno 3 anni in più per adeguarsi, e in quel caso devono avere appunto anche loro almeno il 40% di partecipazione pubblica al 30 giugno 2013, e poi questa quota deve scendere al 30% poi entro il 2015. Il meccanismo della partecipazione incrociata, per cui se io non rispetto questi limiti non posso partecipare alla gara nel mio ambito territoriale ma posso farlo in un altro, è esattamente quello che è già avvenuto con i trasporti pubblici regionali locali, in cui i grandi municipalizzate si sono, per così dire, non dico messi d'accordo, che sarebbe una logica di cartello, però insomma si capiva chiaramente, partecipando in altri ambiti compensavano quello che non faceva nel proprio, e quindi questo è un problema aperto, ma siamo già nel tecnicismo, per così dire, abbastanza spinto. Ma è questo il meccanismo attraverso il quale si paventa che i grandi gruppi privati, si paventa invece di sperare, ma si paventa che entro i grandi gruppi privati. Petrella, questa analisi sicuramente fino a questo momento che abbiamo condotto noi le sembrerà molto troppo parziale, quindi ci riequilibri per favore. No, lei ha ragione di dire che è troppo parziale, perché quello che state dicendo conferma una cosa assai semplice e chiara. Uno dice partecipazione, partecipare alle gare, andare in un altro territorio, questa è privatizzazione. Cosa significa privatizzare? Se io, imprese di Stoccarda, posso venire a gestire l'acqua di Parma e offro proposte basate sui prezzi, faccio gli investimenti, e poi addirittura si sta parlando effettivamente che moltissime di queste imprese sono quotate in borsa. Quando uno è quotato in borsa, che cos'è? Pubblico. E siamo in piena economia capitalista di mercato. Le due maggiori aziende italiane, per esempio, sono aziende italiane quotate in borsa assolutamente pubbliche, cioè l'Eni e l'Enel. Sì, guardi, no, proprio no, ha sbagliato, aspetti, paese, aspetti, se fa questi esempi. Ecco, cioè. Aspetti, lei sta facendo un sacco di confusioni. No, nel senso, attenzione a giudicare, io sono uno che ridacchia, però attenzione a giudicare. Sì, no, però lei ne ha fatte tantissime di giudizi, mica ha fatto delle descrizioni. Quindi, diciamo, una impresa quotata in borsa cos'è? Cos'è pubblica? Si chiama public company. Anche se è un capitale interamente pubblico, addirittura è rarissimo. Che si abbia un'impresa a capitale interamente pubblico. L'acquedotto di Puglia, per restare in tema. Chiedo scusa, mi permette di parlare? L'acquedotto di Puglia, per stare in tema, le offrivo una risposta alla sua domanda. Esatto, è tutta pubblica. La quell'otto di Pugliese non poteva essere quotato in borsa. È una SPA tutta pubblica. No, era una SPA, società di diritto privato a capitale pubblico. È una SPA è un diritto privato, è una società di diritto privato. Cioè, e vabbè, adesso non ci quell'otto Pugliese, posso terminare questa ma frase? Ma certo, si figuri, però è elevato, se uno interrompe appena dice una frase. No, lei non può andarsene, lei non può dire che una società è pubblica o privata a seconda se sia di diritto privato o pubblico, perché è pubblico o privata a seconda di chi esercita il controllo, punto. Altrimenti non ci intendiamo più che cosa è pubblico e privato nel nostro paese. Infatti, mi perdono. Sto tentando di spiegarlo. Cioè, non è perché uno si abbia capitale pubblico, anche a totalità pubblica, che questa sia un'impresa pubblica, se poi lo statuto giuridico di questa impresa è un statuto giuridico privato. Una SPA è una società privata. E questo non significa che il capitale pubblico dia una natura pubblica alla funzione sociale della SPA. Perché l'acquedotto pugliese, in quanto SPA, ha una ragione sociale fondamentale, quella è fare profitto. Mentre invece un'impresa pubblica, che è un ente pubblico, non ha la ragione sociale di fare profitto, ha la ragione sociale di gestire il capitale che gli è stato dato nell'interesse delle sue funzioni specifiche, nell'interesse pubblico. Ora, ritorno all'altro principio, un'impresa quotata in borsa, anche se ha capitali interamente pubblici, che ripeto è rarissimo, non è possibile. Ma a maggioranza sì, un'impresa pubblica mista può essere quotata in borsa, questa è la realtà. E quotata in borsa, che opera sui mercati non solo nazionali, ma anche europei e internazionali, come si può dire che è privata, che è pubblica? È un'impresa privata che obbedisce a obiettivi privati, di natura privata, cioè dire il profitto, aumentare la creazione del valore per il capitale di questa impresa. Questo è l'obiettivo di un'impresa quotata in borsa. Io mi limiterei qui dicendo che non si può affermare che c'è una distinzione tra proprietà e servizio. Anche lì mi permetterei, brevemente smetto, di fare una notazione. La distinzione fra proprietà e servizio è assai mistificatrice, che è chiaro che dice il bene acqua, i fiumi, i laghi restano pubblici. Beh, ci mancherebbe altro, l'acqua è un demanio pubblico, però siccome sono le infrastrutture che restano pubbliche nella proprietà del comune, allora quindi l'acqua sia come bene di base sia come infrastruttura relativa a questa specie di monopolio naturale, non ci possono essere 45 infrastrutture sullo stesso territorio, no, su una città non ci possono essere 45 acquedotti, c'è il monopolio naturale. Quindi questo resta pubblico, invece si privatizza, cioè si mette a gara il servizio. È un servizio, poi si dice, che lo si dà al pubblico, è stato detto, è stato confermato. E da 120 anni le imprese private francesi dell'acqua hanno sempre fatto questa distinzione. Noi dice non privatizziamo l'acqua, né addirittura privatizziamo il servizio. Loro dicono noi riceviamo dai poteri pubblici, dai municipi, eccetera, una delegazione di servizio pubblico. Eppure essendo privati facciamo un servizio pubblico. Questa è la tesi. Questo è falso. Eccoci tornati in studio. La cosiddetta privatizzazione dell'acqua, Petrella sostiene che racconto molte balle perché io presento per pubblico ciò che è privato. Immagino che questa sia l'opinione forse prevalente, naturalmente con pieno rispetto della totale legittimità. Continuo a dire che una società anche quotata, ma se il controllo è pubblico come l'Enel, resta pubblica, e non ci trovo niente di male nel fatto che poi sia incitata a delle funzioni di maggiore efficacia nel rendimento del suo capitale dal fatto di essere quotata, che la obbliga. Una notazione rapida su questo punto? Sì, prego, ma si figuri, ma io non censurò mai nessuno, cioè, anzi io ridacchio. Ecco, allora, se è quotato in borsa, sì, non c'è più controllo da parte del pubblico. Ah no? Ma no, questa, scusi, ma lei in che termini lo dice? Dal punto di vista del codice civile, ma stiamo scherzando? Petrella! No, lei è controllato dal pubblico, glielo garantisco io nel modo più assoluto, eh? No, no, il pubblico perde la capacità di controllare. Ma chi l'ha detto? Ma scusi, ma il controllo... Non è vero, non comunque, è vero. Petrella, alta. Petrella, no, caro Giannino, ma, niente. Grazie, il controllo... Ma non grazie, mi scusi. Vogliamo dire a chi ascolta, come perde il controllo? Le liste maggioritarie, dei consigli d'amministrazione, ma chi le presenta nell'Eni e nell'Enel? Le presentano i soci del capitale privato? Cosa? Le liste dalle quali si eleggono gli organi che gestiscono queste società. No, questo è poco. No, questo è un'altra storia. Va bene, parliamo dell'acqua, ha ragione, perfetto. È un'altra non storia. Non può più esercitare il controllo su un'impresa che opera in borsa, perché tutte le conoscenze relative, sia lo stato del capitale, sia le infrastrutture, sia i valori finanziari, sia sulle competenze, sia sulle tecnologie, passano al privato, passano agli operatori privati. Va bene, e il pubblico non ha più gli strumenti conoscitivi per esercitare la propria funzione di valutazione e di controllo. Formalmente c'è sempre il controllo, però in realtà il pubblico, che non sarà più dotato dei suoi strumenti tecnici, perde la conoscenza, e perdendo la conoscenza non ha più la capacità autonoma di valutare. D'accordo, va bene, vuol dire che gli amministratori delegati non rispondono all'azionista. Comunque, d'accordo, iniziamo con alcune telefonate e torniamo a parlare dell'acqua, ovviamente, ma come vedete c'è una differenza di fondo, persino su cosa è pubblico e privato. Allora, Ivana da Latina, prego Ivana. Buongiorno. Ascolti, allora, io sto a Latina da tantissimi anni e qui è stata privatizzata l'acqua già da molto tempo e devo dire che veramente c'è stato uno scandalo proprio enorme, in quanto sono state mandate agli utenti delle tariffe gonfiate in maniera abnorme, tant'è che questa cosa è apparsa su tutti i giornali, perché diciamo chi gestiva era un ex presidente della provincia che è passato poi ad Acqua Latina. Ed hanno inviato queste tariffe gonfiate a tutti i cittadini. A noi ci stanno strozzando con l'acqua, quindi questo vantaggio di questo privato non si capisce quale sia. Ma questo succede anche con altre cose, tipo, che ne so, anche l'Eni e tutte le altre società. Cioè, voglio dire, ma questi cittadini adesso, che già sono rovinati perché il lavoro non c'è e sono tutti precari i lavoratori, quei pochi che lavorano, che siamo noi un po' più grandi di età, sono strozzati. Io adesso questo mese ho dovuto pagare 562 euro di luce, 450 di acqua. Grazie. Ma dove vado a prenderli questi soldi? Grazie Ivana. Delego poi Alessandro Barbera a rispondere su quanto paghiamo in media Italia, altri paesi, l'acqua nel nostro paese. Paolo da Venezia, prego Paolo. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Al di là del punto di vista ideologico, sicuramente connota gran parte del dibattito dietro a questo tema, solo alcune piccole precisazioni. Noi ci dobbiamo rendere conto che asili e case di riposo sono da tempo gestiti dai privati e forse anche in maniera efficiente tanto quanto il pubblico, insomma. Quello che fa la differenza è il controllo che il pubblico effettivamente riuscirà ad adottare verso il privato, che sistema di tariffe verrà attivato, che metodi incentivanti, per esempio un sistema che incentivi o che faccia pagare di più l'acqua dispersa rispetto all'acqua distribuita, sicuramente può favorire un controllo sugli investimenti. Dopo dipende sempre da tantissimi altri fattori, bisogna vedere se il pubblico sarà in grado di grazie Paolo, esattamente, qui ci sono problemi di regolamentazione e di incentivo e disincentivo per premiare gli investimenti, ricordiamoci cosa avvenne sulle autostrade, e per disincentivare invece alla rendita di posizione nella gestione del servizio, che è sempre possibile chiunque l'eserciti, pubblico o privato, e il problema è fare il regolatore pubblico dovrebbe avere la mano tanto pesante in entrambi i casi. Allora Barbera, quanto paghiamo l'acqua? La paghiamo così da rapinatori nei confronti degli italiani così assetati? No, in Italia le tariffe sono fra le più basse d'Europa, si paga circa 1,29 euro al metro cubo, sono circa 20 euro al mese media famiglia. Nel 2020, secondo i calcoli degli esperti, si potrà arrivare sulla base anche di questa nuova legge attorno a 1,57 euro. A Roma si paga dunque si paga rispetto a diciamo nella media delle grandi città mondiali, si paga di meno per l'acqua solo rispetto a Roma, a Buenos Aires, Hong Kong e Miami. Quindi l'acqua in Italia costa relativamente molto poco. È vero che ci sono alcuni casi, citavo prima quello di Agrigento, dove si spende 440 euro medi all'anno, e casi come quelli di Latina, ma questo è dovuto al fatto, cercavo di dirlo prima, che manca una regolamentazione seria, manca un'autorità dell'acqua, si passa dal tutto pubblico al privato sregolato, che non ha alcun controllo, che fa quello che vuole, che spesso mette nei propri consigli di amministrazione, come è accaduto a Latina, come ricordava la signora, personale politico che stava magari prima delle municipalizzate. Questo è il vero scandalo. Quindi il problema non è, come diceva Petrella, le cui parole sono sempre, a me piace sempre sentire questi discorsi molto belli sul pubblico, che il pubblico è bello e il privato è brutto. Il problema è che c'è da capire, la questione che è da approfondire è perché in Italia si perde il 30% dell'acqua. Si dice tanto che bisogna preservare le risorse perché il mondo va verso la catastrofe, poi ci si dimentica che in Italia si perde il 30% dell'acqua, non si capisce perché non ci debbano essere investimenti, ci si chiede perché debba essere lo Stato a fare questi investimenti laddove invece possono farli i privati, e lo Stato può occuparsi di cose più importanti come i servizi ai cittadini, e in nome di questo però si continua a dire che tutto deve rimanere pubblico. Ecco, io questo tipo di approccio al problema non lo capisco. Il problema semmai è che in Italia ci sono città dove l'acqua costa poco, molto poco, probabilmente meno di quanto dovrebbe costare, e altre nelle quali per mancanza di controlli costa troppo. Franco De Benedetti, da questo punto di vista, diceva Barbera, c'è una resa degli investimenti e una efficacia sulla qualità delle reti, la gestione dei servizi molto differenziata in Italia. Ma lei pensa che in cosa differisca il pubblico su questi argomenti rispetto al privato? Perché il pubblico, diceva Petrella prima, in realtà se mantiene un monopolio della strumentazione tecnica, cognitiva e di gestione, non dovendo far rendere con un'ottica privatistica il capitale, può perseguire meglio, non voglio interpretare il pensiero di Petrella, lo sintetizzo, può perseguire meglio l'obiettivo di servire la comunità su un bene pubblico come l'acqua. Lei che cosa dice? La demonizzazione dell'utile, cioè che l'utile andrebbe contro l'interesse, l'utile del gestore della società andrebbe contro l'interesse dei cittadini. Questo è non è vero, ma è sbagliato da un punto di vista proprio pratico, perché supponiamo che allora, il privato cerca di fare l'utile, allora il pubblico si immagina che cerchi di non farlo. L'utile che cos'è? È il rendimento del capitale, perché poi quando il comune deve fare gli investimenti, siccome a forza di non fare utile fa perdite e si indebita, per fare gli investimenti dove le trova i soldi per farli? Va sul mercato dei capitali, e i capitali glieli danno se lui dà un rendimento. Quindi l'utile non lo dà alla società di gestione, ma lo dà a quelli che sottoscrivono le obbligazioni o i buoni del tesoro o quello che è, e che pagano l'interesse. Quindi l'utile da qualche parte viene sempre fuori, perché se no per quale motivo si dovrebbero fare le cose? Quindi questo è veramente singolare che venga, che non si capisca questo meccanismo, che poi è semplicissimo. O lo paghiamo con le imposte, o lo paghiamo con il debito, non c'è santo, di lì deve andare, i soldi dove vengono fuori? Oltretutto anche tecnicamente, vabbè, questo forse è un ragionamento un po' da economista, ma tecnicamente per gli economisti l'acqua non è un bene pubblico, perché i beni pubblici nell'accezione in cui lo usano gli economisti, sono i beni in cui c'è assenza di rivalità al consumo. Cosa vuol dire? Nell'acqua, se io bevo un bicchiere d'acqua, non lo beve lei, o uno o l'altro. Tant'è vero che si parla della crisi dell'acqua e di paesi che sono senza acqua e così via. Quindi nell'acqua c'è rivalità del consumo. Secondo, nei beni pubblici c'è la non escludabilità del consumo, cioè se c'è un bene tutti lo possono usufruire, mentre invece nell'acqua o c'è il tubo di acqua che arriva dentro la casa o l'acqua non arriva. Cioè la differenza, il bene pubblico classico è il, si dice che sono i fari, per esempio, perché se io faccio un faro non posso escludere qualcuno da vedere la luce del faro, e quindi o lo fa il pubblico o nessuno glielo paga. E secondo, Non è che se io vedo la luce di un faro impedisco all'altra barca di vederlo. Quello è tecnicamente il bene pubblico e si dimostra che nei beni pubblici, se non lo fa lo Stato, non lo fa la comunità mettendosi d'accordo, Stato, consorzio, quello che è, se non lo fanno quelli lì, non lo fa nessuno, perché è chiaro che nessuno lo paga. Eccoci in studio, ci stiamo occupando delle nuove norme approvate ieri in un ramo del Parlamento con il voto di fiducia sulla concessione a gara dei servizi idrici. Abbiamo parlato degli ambiti territoriali ottimali, dell'esperienza della legge Galli, abbiamo messo a fuoco un dissenso molto forte su cosa sia pubblico e cosa sia privato, addirittura nella definizione, e come l'acqua come bene pubblico o non pubblico rientri in questa categoria. Siamo però tutti d'accordo sul fatto che la regolazione resta un problema aperto, bisognerà vedere se si svilupperà una competenza aggiuntiva all'autorità dell'energia, io sarei per esempio di questa ipotesi, oppure se si penserà a un'autorità di settore. Se non si fa però, la qualità della regolazione resta il vero problema aperto, chiunque sia a gestire il servizio nel nostro paese, alla luce del fatto che secondo me molti degli ascoltatori giustamente sono critici o scettici perché giudicano per il momento le privatizzazioni che hanno visto in questi anni, e da questo punto di vista su qualità degli investimenti e efficacia degli adempimenti rispetto a ciò che era previsto all'inizio, beh insomma qualche lacuna è molto grave, si è evidenziata. Quali sono che cosa si aspetta lei in concreto da norme come questo, Petrella? Ma io mi aspetto che questa norma sia cambiata su due punti fondamentali che sono stati discussi finora, nel senso chi finanzia l'accesso all'acqua nella qualità necessaria per garantire la salute alla gente. Finora è stato sostenuto anche con questa legge che in fondo deve essere, a partire dalla legge Galli, che deve essere il prezzo dell'acqua che è pagato dal consumatore. In fondo la legge Galli, come ora ancora questo nuovo decreto addirittura amplifica, tutto deve passare attraverso il prezzo. È il consumatore che finanzia pagando un prezzo gli investimenti in corsi dagli operatori, e il consumatore accetta pagando il prezzo dell'acqua una tariffa che non solo gli operatori recuperino i costi totali di produzione, ma anche recuperino la capacità di remunerazione del capitale e del profitto, e poi anche la creazione di valore. Ora, mi domando, e tutta questa è la giustificazione della privatizzazione e della mercificazione dell'acqua, si mette sul mercato, perché si rifiuta di accettare che l'acqua, i costi necessari, inevitabili per permettere a tutti quanti di avere acqua a casa, di avere l'acqua per bere, per la salute, per l'igiene, non possa essere presa a carico dalla collettività attraverso la fiscalità generale, come è stato sempre nel passato, come ancora oggi in Svizzera, come ancora oggi in Belgio, due paesi ancora dove il finanziamento è pubblico, come anche la gestione pubblica, le imprese sono pubbliche, il bene è considerato pubblico, e non credo che siano esempi di spreco, di cattiva gestione. In effetti, quando noi parliamo a giusto titolo che l'Italia, la classe politica non ha mai risposto in una maniera coerente alla sua responsabilità e ha portato lo sfacelo i servizi pubblici, non è che questo significa che il pubblico non possa essere buono, significa che la nostra classe politica italiana per anni non ha fatto quello che doveva essere il suo dovere e la sua responsabilità. Il privato non è che dice: allora noi, siccome riconosciamo come pubblici non siamo bravi, la classe politica dice io non sono bravo e allora vado a darlo al privato. E noi sappiamo benissimo, anche lei poc'anzi ha detto gentilmente, ci sono lacune enormi. Beh, il privato non ha dimostrato niente affatto, tant'è che anche in Francia, oramai la principale città di Francia, Parigi, ritorna in regicio a dire non ne vuole più darlo al privato, ed erano 100 anni che l'avevano dato al privato. Ora si sta ripubblicizzando a Montpellier, è stato a Grenoble, ci sono una quarantina di comuni in Francia che stanno ora tentando di recuperare la gestione pubblica, per tutte le ragioni che sappiamo, che ogni qualvolta il privato prende in mano un servizio idrico, tre sono le caratteristiche fatte da tutti gli studi, anche dall'OCDE, che mostrano questo: c'è un aumento dei prezzi, perché effettivamente dice devi investire, io finanzio il privato mica finanzia con i suoi soldi, il privato finanzia con i ricavi che ha le tariffe, e normalmente il privato non porta mai capitale fresco, aspetta uno o due anni per recuperare la somma necessaria attraverso le tariffe. Per cui c'è anche questa mistificazione, dice, ah, ma il privato finalmente chi dà i soldi? Ma i soldi ti dà il consumatore, non il privato. Va le bene. Banche non danno niente. Va bene, è il consumatore che paga. D'accordo. Allora, perché con l'aumento della tariffa questo permette ai privati allora di fare gli investimenti. Ma il capitale fresco non lo porta mai. Mi guardo dal fare osservazioni. Certo, in alcuni casi in cui lo fa, in altri casi invece... Petrella, sì, ecco, punto. Secondo punto, è importante quello che è stato detto, io sono contento che questo aspetto sia stato sottolineato. Io in quanto economista, sono anch'io economista, non condivido la tesi che il fatto che ci debba essere rivalità nell'accesso all'acqua e che quindi ci debba essere esclusione rispetto all'acqua. Non ha capito? Scusi, siccome per fatto personale, non ha capito niente di quello che ho detto. C'è esclusione. Se io compro a casa o se io bevo l'acqua, effettivamente quando si privatizza, io, l'altro non la beve. Ora invece il problema non è tanto la rivalità e l'esclusione, e termino su questo punto, ma il fatto che accesso all'acqua non è un problema di scelta rispetto a un bisogno. Il problema dell'acqua è un diritto essenziale e insostituibile. Io non posso scegliere di non bere l'acqua, io non posso scegliere di non avere igiene, per cui non posso. Grazie Petrella, io la devo interrompere però perché le ho dato più spazio che a tutti gli altri no, e guardi, non la sto censurando, non sono d'accordo con nulla di quello che ha detto, piena legittimità di dirla. L'unica cosa è che volevo richiamare a chi ci ascolta che l'esperienza di molti grandi paesi europei non è questo trionfo del pubblico. La mia domanda è: siete disponibili tutti ad alzare le tasse perché con la fiscalità generale aumentiamo gli stipendi della proliferazione di amministratori pubblici nei municipalizzate? Io ricordo a tutti che sono oltre 4.000 le società municipalizzate controllate dal pubblico, eccetera, e sono fonti di inefficienza assoluta. Questa è la mia opinione, me la tengo, minoritaria o maggioritaria che sia. Purtroppo a questo punto la trasmissione è finita perché devo cedere la linea 55. Ringrazio Petrella, il cui punto di vista è sicuramente molto forte, se non maggioritario, nella società italiana, in chi ci ascolta. Tentiamo di fare il nostro spiegando che le imprese private, le banche private, non è vero, mi perdoni Petrella, che col proprio capitale non finanziano investimenti, che sono dei comitati di rapina esclusivamente con i prezzi dei consumatori, perché se questa fosse in sintesi la storia delle società private e delle banche private, non ci sarebbe il mercato e tutto quello che ha prodotto in questi secoli, sarebbero tutti in carcere, ecco, assicurati dai sovrani con grandi società pubbliche che garantirebbero il benessere dei nostri paesi, cosa che, mi perdoni, non è. Ma non voglio, solo perché sto parlando io, darle torto, le sto dicendo che il suo punto di vista è molto forte in questo dibattito, nonché dominante sui giornali come abbiamo visto. Benissimo, ringrazio Franco De Benedetti, Riccardo Petrella, Alessandro Barbera, ringrazio regia Paolo Corleoni e Alessandro Marco Tulli in redazione come sempre, Linea Giornale Radio, l'appuntamento a domani.